bisogno di sogni e del loro potere, quella forza che chiude lo stomaco e il cuore soddisfatto dalle mie parole. Se sai crederci anche tu, e capisco chi cede se lascio il mio segno, occhi che non ti lasciano il minimo dubbio, faccio i conti per me come sempre, non ti spieghi tu com'è. Io cammino sotto traccia, nascondendo la mia faccia, te che sei passato e guai, e sei facile. Col mio cielo un po' più pieno, io rispondo al tuo veleno, a quello che non dirai mai, e sei facile. A tutti per raccontare in giro che sei tu che scegli e ti gonfi d'orgoglio, ma in fondo non ci credi neanche tu. E ridammi quel tempo che non ti dovevo, i miei sogni che volevo vivere in pieno, e per tutte le volte che ho visto e che non hai visto tu. Io cammino sotto traccia, che sei passato e guai, e sei facile. Col mio cielo un po' più pieno, io rispondo al tuo veleno, quello che non dirai mai, e sei facile. Io cammino sotto traccia, nascondendo la mia faccia, te che sei passato e guai, e sei facile. Col mio cielo un po' più pieno, io rispondo al tuo veleno, quello che non dirai mai, e sei facile. Sei facile.